E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Vi anticipo subito, puntata un po' particolare, perché lasceremo spazio allo speciale che abbiamo organizzato giornalisti della Radio24, dedicato alla crisi in Egitto che si sta complicando. Ve l'hanno raccontato già i nostri GR, quindi alle 18.15 avremo uno speciale proprio per fare il punto su quello che sta capitando in Egitto. E non solo, perché c'è anche l'Albania, ma soprattutto l'Egitto. Quindi il programma oggi terminerà alle 18.15. I temi di questa giornata economico-finanziaria riguarderanno soprattutto alcuni dati emersi per quello che riguarda l'economia mondiale, sia da Davos che dall'America. L'America ha diffuso il dato sul PIL nel 2010, molto forte, è la crescita più forte da 5 anni, scusatemi, a questa parte. Ma la cosa più importante, che in qualche modo fa il paio con quanto ha fatto 2 giorni fa Wall Street, ossia il record del Dow Jones, la cosa più importante è che in questo modo l'America ha recuperato, anche dal punto di vista del PIL, tutti i valori pre-crisi. Questo per quello che riguarda il dato sul americano. Poi da Davos stanno arrivando invece le indicazioni di Timothy Geithner, il segretario all'economia, quindi ministro dell'economia americano, segretario del tesoro, sulla crisi passata, qualche timore ancora sull'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Ancora per quello che riguarda il nostro viaggio invece nelle imprese italiane che ce la fanno, nei settori produttivi che ce la fanno, parleremo oggi, come hanno citato, del settore delle piastrelle. Stiamo facendo un viaggio in queste settimane nei distretti industriali. Ebbene, l'Italia è leader mondiale quanto ha fatturato, è seconda dopo la Cina come volume, la concorrenza cinese è fortissima, la qualità non così buona, ma insomma continua il nostro viaggio tra le imprese che accettano la sfida e aggrediscono i mercati, riescono anche a mantenere buone quote di export a livello mondiale. 349-238-6666 per i vostri sms, anche notizie in breve sulla FIOM e poi, come sempre, la borsa. Rapidamente le notizie in breve. Le notizie di oggi, partiamo dai mercati, in questo caso dal mercato petrolifero, dal mercato anche dell'oro. Il petrolio è aperto in rialzo a $86,20 al barile. Per quello che riguarda invece l'oro, siamo sempre in calo a $1,308 sui mercati asiatici. Dicevamo dell'Egitto. Allora, già ieri ce ne siamo occupati, io ricordo che sicuramente non è la cosa più rilevante in questo momento, ma l'Italia è il primo partner commerciale dell'Egitto. Come interscambio abbiamo 6 miliardi di attivo in interscambio commerciale. La borsa praticamente egiziana oggi non ha mai, dopo la sospensione di ieri, il crollo di ieri 10%, oggi la borsa egiziana non ha mai aperto, la borsa del Cairo, e le agenzie di rating iniziano a occuparsi dell'Egitto e a dire che, insomma, se le manifestazioni contro Mubarak continueranno, la tensione resterà così alta, vi sarà anche un declassamento di quello che è il voto del debito sul debito egiziano. Oggi Fitch ha rivisto da stabile a negativo l'outlook, però ha confermato il voto a BB+. E ancora, avete sentito poco fa dal nostro GR che le ultime notizie riguardano proprio quello che sta succedendo ad Alessandria, dove le forze dell'ordine stanno abbandonando le opposizioni dopo che gli insorti hanno dato fuoco alla sede del governatorato, e l'arrivo dei soldati nelle strade di El Cairo, il coprifuoco al Cairo, Alessandria e Suez. La situazione è veramente drammatica. Rimando però al nostro approfondimento delle 18:15. Per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, oggi segnaliamo che la Ford ha diffuso i dati sull'utile, ha chiuso il 2010 con utili per 6 miliardi e 600 milioni di dollari, il risultato migliore degli ultimi 11 anni. I dati del quarto trimestre però deludono, cala infatti l'utile netto di Ford a 190 milioni di dollari. Ancora, dicevamo del PIL americano, vedo già molti messaggi oggi al 349-238-6666. Per quello che riguarda il PIL USA è più 2,9%, è l'aumento maggiore da 5 anni a questa parte, ma soprattutto tutte le perdite accumulate dalla crisi sono state recuperate a questo punto. La borsa, volete sapere giustamente, l'indice italiano oggi perde l'1,1%, perde l'1% anche Parigi, l'1,1 per la precisione, Francoforte meno 0,60, Londra meno 1,24%. Ancora, il quarto trimestre dell'economia americana è sotto i livelli delle attese, sotto le stime più 3,2%, ma ripeto, il ministro dell'economia americano, Timothy Geithner, ha detto la fase acuta è terminata, l'euro sopravviverà, l'Europa sarà in grado di gestire la crisi, il bilancio americano, c'è il deficit al 10% e il debito che viaggia è al 70%, ma viaggia verso il 110, è insostenibile nel lungo periodo. Poi però è arrivato il Fondo Monetario Internazionale, o meglio il numero 2 del Fondo Monetario Internazionale, John Lipsky, che in un intervento a Davos ha detto, insomma, nuovo salvataggio in Europa, nuovo attacco speculativo, nuova crisi sui debiti europei, mai dire mai. E allora, visto che mai dire mai, anche al gufo. Eh sì, perché o ci spiega qualcosa o se no mai dire mai è un discorso da bar, caro Lipsky, anche perché il Fondo Monetario Internazionale, col cavolo che aveva previsto la crisi, quindi un po' più di prudenza, di modestia, ho capito che sei a Davos, insomma, dai. Vabbè, andiamo avanti. La Spagna, disoccupazione a livello più alto dal 1997, nel 2010 20% di disoccupazione. Pensate che il numero dei disoccupati spagnoli sta toccando i 5 milioni di persone, è il dato più alto appunto dal 1997. E il governo spagnolo però ha varato una delle riforme più importanti di questi periodi, e quindi e mi riferisco alla riforma delle pensioni. Praticamente il progetto di riforma delle pensioni, che porterà l'età del pensionamento da 65 a 67 anni, è stato approvato oggi dal governo di Zapatero. In Italia riparte la produzione industriale, più 0,5% a gennaio, più 3,5% a gennaio rispetto a gennaio del 2010, frenano però le retribuzioni misurate dall'Istat, più 2,2% in media nel 2010, con un tasso di inflazione all'1,5%. E poi il rapporto dell'Eurispes, che segnala come per 35 famiglie su 100 in Italia arrivare a fine mese sia uno scoglio insormontabile, un disagio che colpisce soprattutto il sud, il 43% delle famiglie, ma anche il nord-est, 37%, un po' meno il 33% nel nord-ovest. Affitto e mutuo diventano insostenibili per 2 italiani su 5. E i contratti dei precari in 16 anni, questo è un dato veramente... I contratti dei precari in 16 anni sono aumentati del 47,3%. 1%. Cioè da 1.460.000 persone con contratti, diciamo, Coco Pro, insomma, da precari, si è arrivati a 2.153.000. Soprattutto nel periodo dal 96 al 2000, cioè dopo la legge Treu, e dal 2004 al 2008 dopo la legge Biagi. E quanto a contributo del PIL, il Nord è il motore, e si conferma il motore dell'economia italiana, con il 54% del PIL viene prodotto al Nord, il 24% al Sud, il 22% nel centro del paese. Le manifestazioni della FIOM, oggi Landini ha parlato di piazze strapiene, di fabbriche svuotate, di risultato straordinario per la manifestazione di Milano, e poi è andato giù molto duro, ha detto: attenzione, se la Confindustria farà come la Fiat sarà conflitto sociale. Sentiamolo intervistato dal collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Fernando Mancini. Oggi le fabbriche si sono fermate perché non vogliono che il modello Marchionne si estenda, e vogliono difendere un lavoro con i diritti e con la dignità delle persone che lo fanno. C'è una discussione aperta, la piazza l'ha resa esplicita, che riguarda come si continua questa iniziativa. Del resto anche la CGIL, nella discussione che è aperta, la possibilità di arrivare allo sciopero generale è una discussione che stiamo facendo. Quindi la notizia è che lo sciopero è riuscito, che la FIOM e la CGIL insieme in piazza hanno portato centinaia di migliaia di persone, e che la maggioranza dei metalmeccanici non è d'accordo con Marchionne e con la Federmeccanica. È chiaro che per noi il pericolo concreto è che Marchionne diventi un modello che viene esteso anche alle piccole e medie imprese. Noi con la nostra iniziativa vogliamo dire a tutti che se fanno quello che fa la Fiat succede un conflitto che non ha precedenti nel nostro paese, ma noi vogliamo fare accordi, vogliamo che le aziende funzionino, che i diritti siano estesi, e quindi noi offriamo un terreno di confronto per affrontare le questioni, ma garantendo il lavoro e i diritti. Così appunto Maurizio Dandini, segretario generale della FIOM. Tutto giusto, tutti vogliamo più garanzie, più diritti. Ogni tanto anche la FIOM dovrebbe guardare la situazione internazionale, perché non è che l'Italia viaggi in autarchia completa. Vabbè. Va bene, buona notizia invece per quello che riguarda il traffico aereo in Italia. Nel 2010 il sistema degli aeroporti italiani ha avuto un record di traffico aereo, oltre 9 milioni di passeggeri in più si sono imbarcati negli scali italiani, un incremento medio del 7%, pari complessivamente a 140 milioni di passeggeri. Ancora, parliamo del primo tema di apertura, vedo molti messaggi già al 349-238-6666. Il nostro viaggio nei distretti produttivi, in chi al di là di questo paese, sempre in mezzo a polemiche di ogni genere, ci si occupa di tutto tranne che dei temi seri, mi sembra di poter dire con tranquillità, e a chi scrive ma non è vero, le famiglie italiane arrivano tutte a fine mese, beh, complimenti, mi dica dove abita, perché lei le conosce tutte le famiglie italiane. Questi portatori di certezze. Vabbè, andiamo avanti. Dicevo, il viaggio nel nostro settore, nei settori produttivi del paese oggi ha come tappa, dopo che ieri ci siamo occupati della siderurgia e del recupero, anche se siamo sotto i livelli del 2008, del settore della ceramica. Allora, la ceramica, che vuol dire in particolar modo piastrelle, che vuol dire poi distretto in particolar modo di Sassuolo, vede l'Italia essere leader mondiale per fatturato e seconda per volumi. Noi tra l'altro esportiamo il 70% di quello che produciamo. Stiamo parlando di 180 aziende, 27.000 addetti, quasi 5 miliardi di euro di fatturato, di cui appunto 3 miliardi e 7 vengono esportati. Il resto invece è vendita sul mercato nazionale. Ringrazio allora il presidente di Confindustria Ceramica, Franco Manfredini. Buonasera. Buonasera. E buon anno, come facciamo tutto in questo periodo. Mi dica intanto come è andato il 2010, perché anche per voi il 2009 è stato un anno pesantissimo. 2010 il recupero c'è stato, a che livello, quanto siete ancora sotto i livelli del 2008? Dunque, sono stime, perché i dati definitivi dobbiamo ancora riceverli, però diciamo sono molto senz'altro vicini alla realtà. Abbiamo recuperato complessivamente in volume circa lo 0,8% e in fatturato un 2,3-2,5%, che è la somma di situazioni diverse da mercato a mercato. Noi esportiamo il 70% un po' in tutto il mondo, però ci sono dei mercati che sono quelli dove abbiamo presenze maggiori, altre inferiori. Ecco, su questo, tra l'altro, voi avete avuto dei buoni dati verso gli Stati Uniti, se ho ben visto, nel 2010. Sì, questo è un paese che, nel quale noi abbiamo una quota di mercato importante, nel Nord America, insomma, Stati Uniti e Canada. Con il 2009, ma anche precedentemente, c'è stata una grossa caduta e quest'anno registriamo un recupero di oltre il 10%, quindi la dimostrazione che riusciamo a intercettare la ripresa dell'attività edilizia là dove si manifesta. Tra l'altro, una piastrella, un oggetto in ceramica su tre in America è made in Italy, questo lo possiamo... Sì, senz'altro. Andiamo anche oltre se consideriamo la presenza di produzioni locali di industrie che sono di proprietà delle ceramiche di Sassuolo. Certo. Allora, altro tema riguarda invece la Cina, ed è la nostra ossessione, non solo nostra. Mi dica una cosa, io ho visto un dato che un po' mi ha lasciato perplesso, cioè abbiamo le importazioni di ceramica cinese in Europa hanno superato il 7% quest'anno, cioè l'anno che si è chiuso, contro un 2% appena nel 2005, ma questo è dovuto a prezzi o anche a prezzi e qualità? Sì, guardi, no, è essenzialmente dovuta a prezzi, ma noi lamentiamo che sono prezzi che anche per i cinesi sono da considerare sotto costo. Quindi c'è un dumping. Noi configuriamo una, diciamo, procedure di dumping che ovviamente sono da giudicare non corrette, insomma, in un contesto di competizione. Noi abbiamo una grossa vocazione all'esportazione, siamo per la caduta di tutte le barriere doganali, per la liberalizzazione sempre più estesa nel mondo, insomma, del commercio. Però naturalmente le regole devono essere uguali per tutte, devono essere, insomma, le condizioni di partenza, e non mi riferisco al costo della manodopera, ecco, che in certi paesi è più bassa, in Cina ancora di più, ma a situazioni, a comportamenti di certi paesi dove il funzionamento del mercato non è così trasparente e non segue le regole, appunto, della competizione. Ecco, mi dica una cosa, ma noi riusciamo anche a vendere qualche piastrella e qualche ceramica in Cina, oppure come... Certamente, sì? In Cina c'è un grosso, diciamo, gradimento della piastrella italiana, perché rappresenta sempre un gusto, noi siamo leader poi mondiali dell'evoluzione e dell'innovazione del campo ceramica, perché la Cina ha sviluppato questa produzione copiando la ceramica italiana e anche con il contributo quasi assoluto della tecnologia italiana e anche dei tecnici italiani, ma ciononostante è rimasto indietro dal punto di vista così complessivo della qualità e dell'innovazione e anche del gusto, perché queste sono cose che non si improvvisano dal mattino alla sera. Allora, alcuni messaggi che arrivano al 349-238-6666. No, non è una piastrella su tre nel mondo italiana. Da quello che ho capito io, una piastrella di quelle importate in America su tre è italiana. Me lo conferma? Questo glielo confermo senz'altro. Questo è un dato, ma noi siamo presenti essenzialmente nell'Europa, perché l'Europa è il nostro, mercato naturale, dove cerchiamo di presidiare tutti i costi, perché è quello naturale, insomma. Certo. Poi abbiamo questa presenza importante nell'America del Nord. siamo presenti un po' in tutti gli altri mercati emergenti, mm-hmm. però molti dei quali, quasi tutti insomma, sono mercati protetti da dazi doganali, insomma, mm-hmm. cose che invece noi europei insomma, non abbiamo. Ecco, quindi allora, nei confronti della Cina, come anche di altri paesi, ma parliamo in particolare della Cina, quando noi portiamo le piastrelle in Cina, là applicano un dazio del 18%, le piastrelle cinesi che vengono in Italia l'applicano il 5%, dunque oltre a questo, poi se ci mettiamo anche il dumping, credo che è una ragione sufficiente perché insomma noi europei prendiamo dei provvedimenti. Ecco, adesso ci arrivo, sì. Perché tra l'altro ci sono dei casi che noi da sempre sosteniamo che la Cina va affrontata, non va combattuta, però da sempre anche sosteniamo che la Cina deve competere in maniera corretta. Allora, quando vediamo che in Germania arrivano piastrelle chiamate Firenze, se ho ben capito, che sono tutte prodotte in Cina, ma è chiaro che il nome Firenze insomma, evoca la piastrella italiana, ci arrabbiamo. Voi tra l'altro avete introdotto, anticipando l'Unione Europea, già 2 anni fa un marchio di garanzia che si appone in maniera volontaria con scritto Ceramic Tiles of Italy, solo per le piastrelle prodotte in Italia, e state aspettando l'introduzione del regolamento sul Made In. Tra l'altro il prossimo 3 febbraio in Germania ci sarà un incontro proprio con il ministro tedesco. Allora, domanda, siamo tutti d'accordo che ci deve essere il Made In, che non si possono chiamare le piastrelle Firenze, come non si possa chiamare il formaggio prodotto in Canada Parmesan. Non avete un problema di dimensioni? Perché, insomma, questo, diciamo, una volta che tuteliamo il Made In Italy, una volta che il Made In Europe, chiamiamolo come vogliamo, che vengono sanzionati tutte le importazioni scorrette, resta il fatto che la Cina non sta producendo solo piastrelle di bassa qualità o ceramica di bassa qualità. Poi c'è il caso delle porcellane per il matrimonio di Will e Kate in Gran Bretagna, gli eredi al trono, tutti prodotti in Cina, no? Nel Guangxi Shanan Group. C'erano, pensate, in lizza 500 aziende al mondo per questo matrimonio reale. Ma dicevo, non c'è un problema di dimensioni, perché voi siete a Sassuolo, bellissimo distretto, quello che volete, ma insomma 300 produttori di ceramica, poi ci sono 180 aziende. Sono 200. 200. 180, anzi per l'esattezza. 180, perfetto. Sì. Nella zona di Sassuolo, mentre sì. Confindustria Ceramica ne ha 300 nel suo complesso, se ben ricordo. Comprendendo gli altri settori, certo. La sovveglieria e i sanitari. Perfetto. No, ma mi dica una cosa, oltre a combattere giustamente la difesa del prodotto di qualità italiano, non c'è anche un lavoro da fare sulle reti di impresa, sulle dimensioni di queste imprese? Cioè, se vuoi andare in Cina, in Brasile, in Russia, guardi, devi avere anche le dimensioni. Manfredini. Sì, come settore industriale noi siamo anche caratterizzati appunto dal fatto che esprimiamo un distretto specializzato, che è quello di Sassuolo, che è la nostra forza. Ecco, è un distretto che ha dimostrato nel tempo di essere un distretto di produrre innovazione, di produrre anche competizione, ecco, perché se abbiamo inventato e sviluppato un prodotto che poi hanno copiato in tutto il mondo e siamo leader mondiali nell'esportazione di questo prodotto, questa è una dimostrazione precisa, quindi non abbiamo bisogno di indicazioni per cambiare l'impostazione del nostro settore, che funziona benissimo e che ha dimostrato che funziona, naturalmente con sempre la considerazione che un settore manifatturiero, un'industria, un sistema industriale deve sempre innovarsi, deve sempre è un sistema dinamico, quindi non deve mai sedersi su se stesso o sugli allori del passato. Sì, sì. Però noi abbiamo dimostrato di essere innovativi e di rimanere di essere competitivi. Scusi, Manfredini, adesso quello che contestiamo sono e vogliamo siamo per la liberalizzazione. Quello che contestiamo casomai è la pratica scorretta della competizione libera, ecco, quindi ma questa la contestiamo tutti. Ma siamo competitivi, le assicuro io, nonostante che paghiamo l'energia più cara le tasse e nonostante che anche noi, come anche altri, come tutti insomma, i manufatturieri, lamentiamo che il sistema paese deve migliorare, ecco, noi paghiamo l'energia. No, ma adesso facciamo un'operazione diciamo di questo tipo, fermo restando che la concorrenza sleale, truffaldina, le falsificazioni non vanno bene, i cinesi devono smettere di fare questo, lo diciamo da anni. Però E fermo essendo che il paese ha le infrastrutture carenti, che non arriva l'autostrada Sassuolo, che le tasse sono alte, che l'energia costa il 30% in più. Tutto questo è giusto, sì, lo sappiamo. Però un minimo di autocritica, perché io non vorrei che il benaltrismo diventasse la regola, si può fare anche nei singoli settori. E cioè, io dico, e magari la risposta me la dà dopo il metodo e la pubblicità, siete bravissimi, avete creato il modello della piastrella della ceramica in Italia, esportate il 70%. Dopodiché, per non arrivare fra qualche anno a piangere, anche perché il vostro settore ha già perso 2.000 addetti su 27.000, per cui già il 10% quasi se n'è andato, non si può fare una riflessione non dettata dall'urgenza, non dettata dai falsi, sulle dimensioni di impresa, cioè sul fatto che qualche fusione, qualche alleanza, qualche accordo si dovrebbe vedere, invece non si vede niente. Continuiamo a parlare nei convegni, ma non parlo solo di voi, ma poi gli imprenditori, prima di allearsi, prima di fondersi, piuttosto, capito, fanno qualunque altra cosa. Ecco, su questo io, da lei come presidente del distretto, una riflessione la vorrei. La domanda fatta al presidente del distretto della ceramica italiana, a cui riconosciamo tutti i meriti, se no non avreste il 70% delle esportazioni, non avreste un terzo, più di un terzo del mercato americano, riguardava le dimensioni d'impresa. Devo dare una risposta però a un ascoltatore, perché insomma, perché proprio di metodo, ma perché non fa l'imprenditore lei? Tanti bravi a suggerire, economisti, giornalisti, politici, però prendete il nostro posto. Mi scusi, ma che senso ha questo intervento? Cioè, se no non parliamo di niente, allora non parliamo dei politici, perché uno dovrebbe fare il politico, non parliamo degli imprenditori, non parliamo della finanza, non parliamo dei manager, non parliamo di nulla. Ragazzi, invece che essere tanto piccati, ascoltiamo quello che si può fare per non piangere e dire sempre che il problema è ben altro. Questo è il benaltrismo, cioè le tasse, le infrastrutture, l'energia, ognuno si guardi in casa propria. Facessero così tutti, saremmo un paese migliore. Chiudo questo breve inciso. Allora, Manfredini, che cosa si può fare al vostro interno, fermo restando che le condizioni per competere devono essere uguali per tutti, che il campo da gioco deve essere uguale per tutti? Guardi, io ho capito bene la sua domanda, no? E le rispondo. Noi lavoriamo in una condizione di grande competizione, perché operiamo in competizione con tutto il mondo, dopo aver insegnato tutto il mondo a fare il nostro mestiere. Ah, quindi è sufficiente questo per spingere le aziende a fare quelle evoluzioni che devono fare, che l'evoluzione del mercato, dei tempi, diciamo, suggerisce. Quindi noi concentrazioni ne sono state fatte, ne vengono fatte, però le assicuro che non ci sono formule precostituite, questo in generale. Io invece chiedo, sa, che le istituzioni ci ascoltano, perché noi, ad esempio, abbiamo bisogno di istituire anche in Europa il Made In, no? Perché questo non deve essere che c'è in No, ma su questo siamo d'accordissimo. C'è in America e c'è negli Stati Uniti. Siamo d'accordissimo. Le istituzioni italiane e quelle europee ci ascoltano, quindi in Italia il piano casa, l'energia, a livello mondiale la competizione deve essere corretta, ma se le istituzioni ci ascoltano e si perseguono questi obiettivi, ti assicuro che il settore industriale nostro, quello di Sassuolo, sarà ancora competitivo anche fra 10 anni, sì, e probabilmente sarà, sì, ancora leader del mondo. Mi scusi, però sì, immaginiamo che si arrivi rapidamente al Made In a livello europeo, quindi che voi siete tutelati sulla produzione italiana, che questo è un obbligo, un dovere, siamo assolutamente dalla vostra parte, voi, di tutti gli altri distretti, tessile, abbigliamento, calzaturiero, legno arredo, quello che volete. Però lei non mi può dire che le dimensioni non contano, perché questa è una cosa che mi manda in bestia, ma non con lei in generale. No, cioè con gli imprenditori italiani, che pure ascoltiamo, perché qui, pur di non cedere la quota, di non mettersi assieme, ragazzi, quando i mercati si chiamano Brasile, Cina, India, oltre che Stati Uniti, sono mercati lunghi. Allora, i nostri imprenditori, bravissimi a arrivare in Europa, bravissimi a arrivare nell'area mediterranea, hanno difficoltà se non hanno certe dimensioni ad arrivare in quei mercati. Perché la Cina, ne parleremo nei prossimi giorni con Andrea Guerra della Luxottica. La Luxottica ha aperto 113 nuovi negozi 6 mesi fa. Come fa uno ad aprire 113 nuovi negozi se non ha le dimensioni della Luxottica? Cioè, le dimensioni nella vita contano. Non possiamo sempre dire, no, ma il problema sono le tasse, il Made In, le infrastrutture. Anche voi come Confindustria dovreste stimolare le aggregazioni anche di rete, non dico societarie, ma insomma, che si mettano assieme, che facciano le fiere assieme, che abbiano i costi divisi o no? Guardi che forse le manca un dato, non le abbiamo dato un dato. Le prime 10 aziende del nostro settore fanno il 70% della produzione, quindi una certa concentrazione c'è stata. Tenga presente che il culmine del numero delle aziende in Italia che facevano ceramiche era 500. Mi si è già ridotto, quindi, perfetto. Questo le conferma quello che dicevo prima. Un settore come il nostro, che è in continua competizione, io dico non ha bisogno di prediche, cioè voglio dire è attento e lo fa per forza, è costretto dalla competizione, no? È come la Formula 1, sì. per stare a galla, per stare in gara bisogna sempre cercare di trovare fuori la strada migliore, allora, Manfredini, questo vale anche per l'istituzione, quindi no, io le do un suggerimento. Mi dica. Se io avessi responsabilità di conduzione politiche, cercherei di mantenere la competizione corretta, la concorrenza del mercato, poi le imprese, guardi che si adattano e fanno sì che di produrre qualità migliore a costi migliori e questo è la competizione. No, ma guardi, è la competizione che dobbiamo garantire. Allora, competizione noi siamo da sempre a favore, però a mio avviso, a parte che le prediche, io non faccio prediche, Manfredini, però nessuno nasce imparato a questo mondo, per cui anche l'imprenditore si può ascoltare quello che gli viene detto, non dico lei, ma in generale per tutti i vari settori, cioè che ci sia un problema di dimensioni, che abbiamo fatto intere puntate, che in Cina ci abbiano rubato non le ceramiche, ma in generale anche quota di mercato i tedeschi, perché hanno imprese più grandi, questo è un dato di fatto, non è una predica. Allora si può anche dire, questo era il mio suggerimento, dateci una cosa dell'energia simile a quello degli altri paesi, tutelate il made in, tutelate anche, dateci un po' di tasse, per esempio noi da sempre suggeriamo agevolate fiscalmente le imprese che si fondono, che si uniscono, in modo che uno paghi meno tasse, abbia un incentivo, dateci queste cose. Dopodiché noi siamo disponibili anche a fare uno sforzo in più, perché se tutti vogliono tenersi proprio il loro orticello, forse in Cina hai più difficoltà, ma questa è una cosa di cui sono assolutamente convinto, per cui non è una predica, è proprio una convinzione. Detto questo, mi dica. Le aziende italiane rispetto alle aziende cinesi della dimensione non sono da meno. Sono le prime aziende italiane, le prime 10 come fatturato sono superiori, l'ultima delle top 10 è pari alla prima azienda cinese in rapporto del valore, quindi non è questo il problema, cioè i suoi associati non hanno problemi, di qualche trucco che c'è sotto, insomma, a cominciare dal cambio, ma lei sa che non è che siamo solo noi che lamentiamo questa situazione, ormai si lamentano anche gli americani, si lamentano anche i tedeschi, che una volta forse, quindi ma secondo me le cose è giusto fare queste considerazioni, però è giusto fare la diagnosi indovinata, perché lei ha ragione, però voglio dire, abbiamo fatto 2/3 di questo approfondimento dedicato appunto al made in, alla concorrenza sleale, se poi però una cosa mi sembra, non mi faccia come i politici, una cosa che dovreste fare voi dice no, ma non siamo perfetti, no dai, cioè, tutti noi abbiamo dei grandi limiti, a partire da chi sta conducendo questo programma, ci mancherebbe, che si scusa più volte al giorno. Invece in bocca al lupo, c'è chi mi chiede perché continua a dire buon anno fino al 31 gennaio, dirò buon anno bocca al lupo a lei. Ma soprattutto ai 27.000 addetti che ci interessano particolarmente del settore della ceramica. Secondo me fate una riflessione anche sulle reti di impresa, su come andare all'estero, così continuo imperterrito. Grazie al presidente di Confindustria Ceramica, Franco Manfredini. Ragazzi, noi invitiamo gli imprenditori, i rappresentanti dei distretti, proprio per far ascoltare dalla voce dei protagonisti quelle che sono le loro richieste, le loro esigenze, le loro difficoltà, e diamo anche ragione in molti casi, e poi anche delle volte le resistenze. Insomma, solo facendo parlare alle persone si possono capire i problemi, non invitandoli, ma ci mancherebbe. Detto ciò, la borsa. Basta con i messaggi su questo, per favore. Livia Zancaner. Buonasera. Buonasera a te. Allora, intanto smentisco tutti gli ascoltatori, non è la mia preferita, non ho preferiti. tra Radio Core, Sole 24 è l'unico preferito, il direttore, così la chiudiamo. Allora, Livia, la borsa oggi ha avuto una bella correzione, soprattutto a Parigi meno 1,41 e Milano meno 1,30%. Diciamo però che veniamo da una settimana in cui soprattutto Milano i rialzi c'erano stati. Tra i titoli positivi, TOZ più 1,90, Banco Popolare più 1,80, Autogrill più 0,80, male oggi Fiat, meno 4,5%, già ieri c'erano stati i realizzi, insomma meno 4,5%, ultimo prezzo a 7,31 euro per Fiat Auto, scusatemi, ho detto una cavolata, a 6,98 euro per Fiat Auto. E per invece gli altri titoli Fiat è andata un po' meglio, il calo non è stato così forte, però Fiat Industrial perde comunque il 2,36% a 9,94 euro. Anche Xor, come sempre avviene in questi casi, negativa. Partiamo da Fiat. Sì, allora dobbiamo dire che la Galassia Fiat quindi ha chiuso ancora in calo oggi all'indomani dei conti, e i prezzi, appunto facendomi il calcolo dopo che hai dato tu i valori, risultano comunque al di sopra del valore del gruppo prima dello spin-off. Gli operatori già ieri avevano segnalato che i risultati di Fiat erano già stati scontati nel valore dei titoli, ma per quanto riguarda la giornata di oggi bisogna sottolineare che il comparto auto europeo ha chiuso in calo di oltre l'1%, penalizzato soprattutto dallo scivolone di Ford a Wall Street, che sta cedendo l'11,5%. La società ha infatti ha registrato un calo inaspettato dell'utile nel quarto trimestre, risultato netto che è sceso a 190 milioni di dollari dai 696 milioni sì, del quarto trimestre dell'anno precedente. Come raccontavamo, appunto Ford ha avuto un bel anno ma un brutto ultimo trimestre. Ancora invece, tra chi ha perso oggi in borsa c'è Fondiaria Sai, meno 2,80%, ma anche Pirelli meno 3% e Telecom meno 2,40%. Allora facciamo Pirelli, Fondiaria e Telecom. Ok, allora Pirelli ha risentito dell'andamento negativo del comparto auto dopo alcune sedute in cui il titolo mi era salito a parte ieri. Per quanto riguarda Telecom, allora le azioni risentono delle prese di beneficio dopo un guadagno del 4,4% dal 20 gennaio di oltre 10% all'inizio dell'anno. Secondo alcuni esperti però il titolo non beneficerà della pubblicazione dei risultati in calendario per il prossimo 24 febbraio, anzi il prezzo dell'azione potrebbe scendere del 10% nel prossimo mese e mezzo. Bisogna ricordare anche che il titolo ha sovraperformato il settore europeo delle telecomunicazioni di oltre il 7% all'inizio dell'anno. Per quanto riguarda Fonsai, le azioni hanno perso il 2,8% circa all'indomani delle dimissioni del amministratore delegato Fausto Marchionni, sostituito da Emanuele Erbetta, e il taglio dei target sul piano industriale 2011. Inoltre, in un'intervista rilasciata oggi al Sole 24 Ore, l'amministratore delegato ha spiegato di voler congelare temporaneamente le varie dismissioni nel quadro del riassetto industriale. Allora, vediamo i migliori e i peggiori. Oggi investimento e sviluppo più 11%, Mondo Home Entertainment più 9,80%. Ma quanto sta guadagnando sta Mondo Home Entertainment? Sì, allora bisogna dire che i due rialzi oggi sono correlati, nel senso che Carax, che la contratta investimenti e sviluppo, ha comunicato di essere salita all'11,5%. Piano. All'11,5% del capitale di Mondo Home. Il mercato scommette su ulteriori movimenti, quindi nell'azionariato, semplicemente perché Carax, la prima comunicazione di acquisto titoli da parte di Carax in Mondo Home risale al 30 dicembre, quindi sostanzialmente in poche settimane la società è salita, ha acquistato il 12% circa del capitale. Bisogna ricordare inoltre che Mondo Home solo il 25 gennaio scorso ha reso noto su richiesta Consob di non essere a conoscenza di elementi che possano giustificare l'andamento del titolo. Allora, questo per quello che riguarda, sì, loro non saranno a conoscenza, ma qualcuno sì, perché continua a guadagnare, cioè, fa impazzire questi comunicati, poi scopriremo che in realtà, vabbè. Interverrà la Consob, ci auguriamo. Credem più 7,94, risanamento più 6%, Tiscali più 5,40 e poi, buongiorno più 3,70. Tra chi va peggio invece, Gabetti Property Solution perde oggi il 6,86%, Milano Assicurazioni il 5% e di Fiat abbiamo detto. I bancari, se abbiamo, quanto abbiamo? 50 secondi per i bancari. I bancari di Autogrill abbiamo detto più 0,86, Banco Popolare soprattutto oggi è l'unico bancario che chiude in positivo, più 1,80% tra quelli sì. maggiori. Sì, allora è ancora, bisogna dire che è ancora in corso un aumento di capitale del Banco Popolare che si concluderà l'11 febbraio e le azioni stanno guadagnando terreno dalla partenza appunto dell'operazione il 17 gennaio. Bisogna ricordare che di pochi minuti fa la notizia che la Fondazione Cari Verona ha comunicato di aderire all'aumento di capitale fino a un massimo dello 0,5%. E lì c'è tutto il tema anche del rapporto di Tremonti con questa vicenda. Comunque non possiamo dare, lo dico a chi scrive informazioni sui conduttori, Livia Zancanelli, tu sei su Facebook? Sì. Allora andatevi a vedere Livia Zancanelli su Facebook, qui parliamo di borsa, lo dico a tutti quelli che complice il venerdì si occupano di altro, grazie a te e grazie a tutti a i colleghi dell'agenzia di stampa di Radio Corriere Sole 24 Ore. E allora abbiamo 6 minuti scarsi per passare dalle tematiche italiane a quelle internazionali, perché continua il forum di Davos e continuano ad arrivare dichiarazioni, anche perché oggi sono intervenuti da un lato il ministro dell'economia americano, il segretario del tesoro Timothy Geithner, dall'altro poco fa anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. Merkel ha detto: difenderemo l'euro e lo faremo ad ogni costo, se fallisce l'euro fallisce l'Europa. Questo insomma dovrebbe tranquillizzare, perlomeno formalmente a parole, chi temeva un disimpegno tedesco. Detto ciò, la notizia più forte oggi riguarda, al di là di quelli dei casi italiani, riguarda il PIL americano. 349-238-6666 per i vostri sms. Perché? Perché nel 2010 l'economia americana è cresciuta del 2,9%, la cosa più importante è che è l'aumento più forte dell'economia a stelle e strisce negli ultimi 5 anni. E in questo modo l'America ha recuperato tutte le perdite quanto a PIL dovute alla crisi. Attenzione, arriveremo a analizzarlo, com'è che l'ha fatto, imbarcando un deficit stratosferico, il 10% del PIL e un debito che continua a crescere al 70% del PIL. Però devo dire che, come già ricordavamo in apertura, questo dato va di pari passo con quello della borsa di 2 giorni fa, cioè il Dow Jones che era tornato ai livelli pre-crisi, giugno 2008. Un po' sotto le attese il dato invece sull'ultimo trimestre del PIL americano, ma della situazione economica ha parlato da Davos, come accennavo, il segretario al tesoro Timothy Geithner, dicendo: attenzione, tutto bene, però non possiamo andare avanti nel medio termine con questo livello di debito e di deficit. I think there's more confidence now. Penso che ora ci sia una maggior fiducia sul fatto che la fase più acuta della crisi sia dietro le spalle, non solo negli Stati Uniti, ma anche a livello globale. Tra gli investitori c'è la convinzione che sia in atto un'espansione economica di un certo rilievo. Certo, non è un boom, non è una crescita tale da portare a un calo rapido del tasso di disoccupazione. Ma c'è comunque maggiore convinzione sul fatto che si sia superato il rischio di scivolare di nuovo nella recessione. E penso che questa fiducia sia giustificata. A livello globale, visto che i 2/3 del mondo, ossia le economie più avanzate, stanno solo ora uscendo dalla recessione, non metterei l'inflazione in cima alla lista di preoccupazioni. Circa la crisi del debito, è importante il fatto che l'Europa sta facendo il possibile per mettere in atto le misure e le riforme per aiutare i paesi in difficoltà. E sono assolutamente convinto che l'Europa riuscirà a gestire la crisi del debito. Non ha alternative tranne che sostenere le riforme, che comunque necessitano di un tempo per funzionare. Riguardo gli Stati Uniti, penso che l'attuale situazione del nostro bilancio sia insostenibile nel lungo periodo. Così appunto Timothy Geithner da Davos, e siamo in collegamento con uno dei due inviati del Sole 24 Ore da Davos, Vittorio Darold, buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi sembra tante persone che sono intervenute oggi a rassicurare, Geithner che dice insomma l'Europa saprà gestire la crisi, l'euro sopravviverà, poco fa Angela Merkel, tutti si sono affrettati a tranquillizzare i mercati, Vittorio? Sì, esattamente, sembrava di assistere a una conference call di fronte degli analisti, che a un meeting di Davos. Ha cominciato ieri Sarkozy dicendo che l'euro non verrà mai messo in discussione, oggi ha ripetuto lo stesso concetto la Merkel, e anche Timothy Geithner ha detto che l'euro resterà unito e che quindi non ci sarà nessuna divisione, che la crisi in qualche modo è già, il picco della crisi è passato e che quindi siamo lentamente verso una fase di ripresa. Sì, tu sai che una vecchia regola nostra è che una smentita è una notizia data due volte, quindi smentire che l'euro sia sotto attacco significa confermare che i timori ci sono. Domanda, visto che fra pochi minuti avremo lo speciale sull'Egitto, si è parlato della situazione più che del solo Egitto, anche se la principale economia del Nord Africa, della situazione di tutto il Nord Africa, della sponda sud del Mediterraneo? Sì, naturalmente se ne comincia a parlare. Il ministro della difesa tedesco ha parlato di contagio, rischio contagio nel Medio Oriente. Anche se non è stato il centro delle discussioni, perché il tema era appunto il debito sovrano giapponese, soprattutto questo abbassamento del rating che ha cominciato un po' a mettere in allarme i mercati ancora sul debito sovrano, questa volta dei paesi ricchi, non più solo, quindi dei paesi periferici europei. E l'altro tema è stato quello delle riforme finanziarie. I banchieri erano molto nervosi perché queste nuove regole, soprattutto la Dodd-Frank in America, sta creando molte regolamentazioni sulle banche, spingendo queste attività più a rischio a passare ad altre attività, il cosiddetto shadow banking system, cioè hedge fund sostanzialmente, quindi le attività più redditizie sì, passerebbero a un'area non regolamentata. Questo danneggerebbe, secondo appunto i banchieri presenti a Davos, le banche che hanno maggiori regole. Ecco, questo è sì, un po' il tema. E non mi sembra che sia il caso adesso di passare a ulteriori elementi di shadow economy, di economia ombra, di finanza ombra. Grazie intanto Vittorio D'Arold, io ricordo che poi Davos si conclude nel fine settimana. Devo dare un aggiornamento però che riguarda poi lo speciale che stiamo per lanciare sull'Egitto, perché le tensioni in Egitto si sono ripercosse anche sull'euro, che l'agenzia dice crolla, ragazzi, crolla. Insomma, da 1,37 è passato a 1,3595 perché gli acquisti sono andati sul biglietto verde, valuta più di rifugio, e il petrolio invece ne sta risentendo. L'Egitto è un esportatore di petrolio, è volato a New York a $89.5, più 4,5%. Qualcuno ci ha anche chiesto se bisogna temere, essere preoccupati per le proprie abitazioni a Hurghada e a Sharm el Sheikh. Non mi sembra proprio il tema più importante in questo momento, poi staremo a vedere. Noi ci fermiamo qui, è veramente tutto per questa puntata, per la settimana di Focus Economia. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno come sempre per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, il traffico e poi lo speciale di Radio 24. Radio 24, la passione si sente.